Zone 10, c'è nessuno per un controllo? Stazionaria, però qualche cosa, boh, ancora non sta accordando bene. Va bene, fare dorso. Caffa. Chiaramente molto sposti, non vogliono parlare. Anda bene Meda. Gala. Tutto a posto, tutto a posto, è da mettere a posto, di salute non sto tanto bene. Ma e lo sai? Sì, ne ho avuto poco di cose. Il 2020, annus horribilis, ho avuto 3 ricoveri, 2 operazioni, vabbè là, là che mi figli, che meglio. Hai parlato a raccontarle e poi passate il sonno a dare i fegati. Infatti. Allora bisogna vedere se riesco a sentire tutti quelli che sentivo prima, questo cavolo di giocatore di antenna. Saluti dalla 50, Daniele. Contraccambia Natali, qua contraccambiano tutti. Va bene. Chi c'è sotto Natali? Sento una voce. La televisione è... No Natali, no tu no. Come volli tu, sento qualcuno sotto. Caffa. Quello c'è, ho capito che era... la TV accesa e quindi col amplificato la si sente. Tu non lo senti Natali? Il segnale è 7 però la radio è bassissima. No, non lo sento. Ma c'ho l'antenna bassa, la colpa è mia che c'ho l'antenna bassa e c'è 1 metro dal tetto, non di più. Adesso la devo cambiare perché quando piove mi riempie la bobina d'acqua e me la manda in corto. Mi servono le stazionarie più di 2. Ma cosa c'è? L'energy? Come? Ma cosa c'è? L'energy? Perché la conosci? Quella che si è rotta a me. Anche a te ti si è rotta, boh. Sì, lo sai, davanti a quando ti ha fatto quel ventaccio l'altro lì? Questi giorni. Cosa era? Venerdì, sabato, quando era? Cavolo, c'è quella bobina, no? Dove c'ha poi quel rivestimento in plastica. Ma lì si è troncato e è rimasto appeso all'altro anello di tenuta. Ed era Penzuroni era. La mia è ancora su, solo che è messa male. Infatti c'ho la Game Master qua pronta da piazzare e che mi viene male perché piazzata in un modo strano. Se la vedi ti metti a ridere. Oia. Devo tirare leggermente più su, ma ripeto, ho sceso il terzo elemento che era già sorto, è sceso, adesso riesco più a salire, si è incasciato, se. Adesso ho 90 centimetri del terzultimo elemento che esce fuori, gli altri 2 sono tutti in alto, diciamo. Ma non servono quelle antenne, no? Quando Biobis si viene a Nideva e ti la manda in corto. Anche un amico mio ce l'ha buttata. La mia era già vecchia di semi. Non è che ho presa nuova, capito? Era già adattata. E i suoi anni li ha fatti, almeno 3 anni sembra che ce li ho. E io ho capito. A me una ce l'avevo in campagna, la Salsedine, la Sosa mi ha fatto di quelle energy. Mi ha ossidato dove si attacca l'antenna, no, il bocchettone dell'antenna, e me ne farà drugavi in terra, fatti rugon. Oia. Ogni tanto ne hanno una queste antenne. Vabbè, tocca mi detto su questo casino qua e mia, adesso ho messo questa qua e ho dovuto togliere il mandato di radiare, posso andare con 4, perché se no non ci passa mai la mantova. Sì, già ho capito, come avevi la mantova stessa. Esatto, avevo la mantova, la turbo e avevo la mantova 5 alla fine, e gli altri 3 non ci stavano. E così questo, ne riuscivo a farla scavalcare. Magari in 2 ci saremmo riusciti, tanto quella pesa niente, ma è sempre complicato il movimento. Sperando sempre di metterla in un punto migliore. bene, va bene. Sarò me, ma non so di comprare la Game Master. Ecco, io ce l'ho qua già pronta. E devo scenderne questa e piazzare la Game Master. C'ho 4 metri di palo da aggiungere. Infilo dentro e via, così la metto almeno 3 metri più in alto di come è adesso. Va bene, va bene. E poi per il resto è andata lì. E per il resto siamo così, cosa vuoi? Non cambia niente, capito? Andava bene, Leda. Non so perché si blocca. Ma cosa c'è, l'accordatore automatico? Ehi, questo è il 14 in realtà lì, che c'è con l'accordatore. Però adesso lo sta staccando. Capito, le manca l'ultimo scatto per mollare. Mica non c'abbi lo spezzone messo male. Aspetta, mi sto controllando tutto. Oh, come coso, c'ho un euro di stazionare in realtà lì. E allora non si può annullare l'alimentatore, l'accordatore. Sì, mi fatto. Ma adesso non so perché era qualche tempo fermo o che cosa, non sono arrivato a vedere cosa c'è. Ma quanto c'è di stazionarie? Una e due, insomma, lo strumento. E allora falla andare senza accordatore. Se non ce la fa accordare, sta sempre girando, girando e non accoglia. No, è fermo, sta lì, ma no, non sta agganciando. Non è che puoi fare una... Mi piace così. Allora... Le celle di sono, ecco perché sono 19 e preghiera. Sì, vabbè. Oh, ti stavo dicendo, una prova in banda laterale, la mia. Ehi, vai, dove andare? USB. In USB vai. Gara, ci sei a tale? Yes, sir. Gara, e c'è quanti fatti stanno per fatto? Che ci va? E io lo stesso sono basso. Non ho alzato, capito? Cappa di rosmetro. Guarda adesso Natali, cosa è cambiato? Niente. No, negativo, perché? Aspetta. E adesso Natali, ora. I picchi più forti c'hai. Beh, adesso l'ho messo a 15 watt, l'ho messo. E quanto sono io sei tu, dai. Il minimo è questo qui qua. Va bene, va bene. Giusto per farlo andare. Vedi, a vedere qua. No, 1 e 1 sono le stazioni anche lì. Sì, no, 1 e 1, perché sono le 1 e 2. 1 e 1 sono, era giusto anche l'altro, allora, ancora se lo metto segno giusto. Andà bene Mela. L'importante è quello, Natali, che sia tutto la stazione del basso. Se riuscissi a alzare anche quell'altra diretta avrei fatto 13, guarda. Non ne posso la vita. E io non l'ho vista adesso com'è, sennò ti avrei dato una mano io. È un casino, Natali, perché ce l'ho su, ti ricordi la mansarda? Ho messo le staffette attaccate alla ringhiera come erano prima, però ho messo la parte dopo la mano, quella della parte lunga, l'ho messa nel lato. E lì viene, insomma, ci sta, la persona giusta ci sta a lavorarci. Ho capito. A Fannapoli a me che cazzo, come si dice, l'ho sceso tutto. Perché ascendere già è facile, salire è difficile. Infatti. Cappa di rosmetro. Andiamo a vedere Veda. E adesso accordando sta. sempre il... No, la Tori. È strano, perché il tunnel... Ah, questo è il problema, non lo ricordo più, se no piano non ha molto più nulla. C'ho la lucetta rossa del tunnel acceso. Si deve spegnere tutto, così è. Io non me lo ricordo quello lì. Esatto. No, ma detto, magari fosse con te. Ma i spezzoni sono giusti. Sono giusti gli spezzoni. Aspetta 30 secondi, Natalia, faccio una prova. Cambio lo spezzone. E cappa. Prova, prova. Prova apparato. CQ 10. Begin. Ciao Gianfra, buonasera. Ecco, good evening, my friend. Ciao Natalino, ieri ti abbiamo mandato e spedito ampi saluti. Ho sentito, perché ho fatto ridere a quella persona, perché è vero la storia dei dipoli. Quella non avevo capito, la storia dei dipoli, quelli dei dipoli che si attraggono e si respingono. Natali, della mantella nera, è vero, che ha messo i fili che andavano da un posto all'altro. Natali, oi, lo spezzone, buonasera, che è entrato, scusate l'invasione. Gianfranco, te l'avevo detto che era lo spezzone, perché quello deve accordare per forza di cose. Adesso sei 9:20, Natalia, hai toccato qualcosa, sei 9:20 tondi tondi. No, non ho toccato nulla, c'è la radio bassa e i watt bassi. Guardami, ha un'orientazionaria ciò adesso. E adesso perché ha accordato bene l'apparecchio. No, ma anche aspetta. Anche spento. A uno. Si deve spegnere infatti. Quando finisce l'accordo fatti che si spegne. Scappa di rosmetro. Buonasera Gianfra, ben sentito. Sì, buonasera, anche se non ho capito chi sei, perché è una radio un po' così, un po' amplificata e quindi leggermente distorta. Troppo alto il suono. Sì, si sentono tutti sottofondi, sento la bambina che c'è. Io, bambino. Guarda che ho passato adesso, Gianfra. È sempre abbastanza forte. Sempre abbastanza forte. Cosa ti volevo dire, Natalia? Cos'è quel discorso dove va collegato il quasiale, la discesa? Era un accordatore che non accordava, un accordatore automatico. C'aveva lo spezzone messo male. Vabbè, se l'accordatore è buono accorda a prescindere, certo se qualcuno se lo mette anche... Insomma, Natali, lasciamo perdere. Già è buono l'accordatore, è del K, l'accordatore esterno è mio. Lo so, ma sai, le istruzioni per l'uso vanno sempre lette, anche se possono essere antipatiche, però le devi sempre leggere. E io non me lo ricordavo neanche, perché io non c'avevo quello l'apparecchio, io l'accordatore ce l'avevo dentro l'apparecchio, capito, era dentro contenuto, era diverso dal mio, io schiacciavo un bottone e accordava, boom. Sì, quello sì, però è sempre meglio quello esterno, almeno lo metti vicino all'antenna, perché tanto tu puoi guardare anche con l'apparecchio, ma più che altro serve per non danneggiare i finali, poi l'antenna disaccordata era, disaccordata rimane, perché fa l'antenna tutto il cavo, c'hai un alto livello di rientro e la parecchio, okay, che ci fanno vedere un SVR basso, però il retronoslus che c'hai può diventare pazzesco dal cavo fino all'antenna. Quindi gli unici accordatori che veramente fanno il loro lavoro sono quelli che sono sotto l'antenna, proprio appiccicati all'antenna, massimo 5-10 cm di filo da collegare dall'accordatore al bocchetto dell'antenna, come fanno quelli professionali, tutto lì. E K, lo so, è che lui c'ha quello di linea esterno, però l'antenna c'ha uno stilo che nelle cese non riesce più a farlo salire, quindi è disaccordata per forza, capito? No, la tarita è accordata già, l'ho provata anche con l'altro. Adesso è accordata, proprio lo spezzato e tornano poi nelle scatole. E infatti avevo detto controlla lo spezzone, che non sia lo spezzone, perché sennò non si ferma lui, sta sempre no, non stava sempre accordando, non stava sganciando, lui accordava, ma le mancava l'ultimo scatto. E infatti c'era qualcosa che non andava. E va bene, dai, vi sento un secondo, ci sentiamo tra poco. Andà bene, a tra poco. Riprendi Gianfranco. Ok, a tra poco. Ma Taviti, volevo dire, porca miseria, è passato. L'antenna è sempre lì, no? Niente, non ho potuto fare niente. E ancora no. Adesso mi devo mettere d'accordo con un amico e dobbiamo piazzare le staffe, perché la piazzo con le staffe adesso e così la posso scendere da solo, non devo chiedere niente a nessuno. Capito? Siccome il palo è telescopico, no? Ce la salgo da solo. E ce la, e ne la scendo da solo quando ne la devo scendere. È nata di l'unica, guarda, bisogna ingegnarsi a fare le cose da soli quando è possibile farle, perché se aspetti qualcuno poi sai come va a finire, no? È sempre la stessa la storia. No, io invece quando era avanti ieri credo che c'era di nuovo quella tempesta, rompiscatole, ho visto la Game Master che era diventata temporalizzazione orizzontale, ho detto bah, questa è la volta buona che si spezza. Invece maledetta è sempre lì, sempre lì, quando proprio c'è il coso che si sta spezzando, è lì. Ma vento mi nata lì, qua ha sradicato anche qualche albero. Adesso aspettiamo il prossimo, cosa ci combina? Ma tu nessun rinforzo gli hai messo, solo le faccette e basta, così Gianfranco. L'antenna è come mamma l'ha fatta, o meglio come la fabbrica l'ha fatta, quindi è piazzata, come piazzata, sta un tubo, il tubo c'ha un tirantino solo, in modo che oscilli almeno un pochino, così fa da ammortizzatore. Niente, l'antenna si piega, ma si piega tanto, perché con quel vento, insomma, ne ha già passato due nel giro di un mese praticamente, di quei venti lì molto forti, si è piegata, io pensavo che, ripeto, che si rompesse a quel punto, perché con quella piegatura anche le antenne migliori potrebbero spezzarsi tranquillamente. E invece è bella dritta adesso, adesso che c'è poco vento, fammi no, un pochettino di venticello c'è, ma basso, basso, basso. Tutto lì, quindi posso dire che insomma ha superato delle prove pesanti, pesanti anche per antenne più corte. E me lo posso immaginare, se c'è tutto quel vento lì, lo credo. Adesso io ne devo scendere il palo con quell'antenna vecchia che ho con questa qua. accenderne quello lì viene male, non è altro, no? Infatti è per quello che voglio piazzare le staffe, così almeno ne lo scendo a terra e poi scendo gli elementi uno a uno, piano piano. Quella forse anche perché ci avrà i radiali e impediscono. Infatti questa qui viene meglio a salircela, così non vedo piazzare anche quella X30 e quell'altra che c'è su, quella tanto radiali, quella lì non è quella che ho fatto, quella con cui vi ascolto, da. Sì, ma dati già l'X30 a Puglia, dovresti ascoltare tranquillamente un po' tutto. Tanto noi siamo tutti locali oramai, hai visto che è anche raro che andiamo sui ripetitori, quindi comunque ci ascolti, e non lo sappiamo. Se addirittura vi ascolto con quella, una di macchina, una collineare di macchina, sarà alta 1,5 metri, va. E ce l'ho qua nella finestra, ascolto i ripetitori, tutto, figurati con l'antenna su. Adesso esce 1 metro l'antenna, ma devo aggiungere quel palo da 4 metri che ti avevo detto, da un pollice, no? E così almeno esce almeno 3 metri. Il palo è da 4 metri, ne lascio 1 metro dentro e via. Infatti Natale. Io poco fa ti volevo chiedere, ma è in ascolto per caso? E poco fa sì, poco fa già ero in ascolto, ho sentito a Claudio, Marco, capito? Stavo ascoltando, solo che adesso ho tolto l'audio perché sto parlando qua. Perché stavo cercando qualcuno per fare una prova, solo l'ascolto, ma comunque una prova, un parere di radio, se va bene. Perché un sistema è come oggi, comincio a azzeccare anche, però insomma se funziona tanto meglio. Questo operativo, vediamo, ne ho due accesi, controllo questo se funziona, ma penso di sì, se funziona. Volevo fare una prova, se la qualità era buona, la qualità di modulazione, no, segnale non mi interessa. Vabbè, dimmi dove dobbiamo andare e ci fa la prova, non c'è problema. Ovviamente tu sarai fisso a 25, no? Sono fisso sia a 25 che a 50. A 50 in alto? Quindi potrei usare anche quella. Sì, in effetti è più comoda quella che è meno rompiscatole, dai, perché di là magari sono in 3.000 in ascolto, mentre vediamo un po' se ci riesco. E tu dimmi, adesso metto l'audio, aspetta. Potrebbe esserci la svolta. Ecco, adesso c'è l'audio, ascolto sia da una parte che dall'altra. Vediamo un po' se mi ricordo dove... No, che combini. Questa è una scala. Aspetta che mi sta andando là. No, forse adesso va bene. 400, no, devo salire. Che pazienza che ci vuole quando non c'hai gli occhiali. Ecco, provo un attimino a trasmettere a bassa potenza, giusto per capire se mi ascolti. Accidenti alla vecchiaia. A voglia. È chiara? Sì, sì. Bene, molto, molto, molto bene. Dunque, quindi se l'ascolto lì, adesso sì, io, aspetta, perché qua la cosa è un po' complicata. Ecco qua, quindi quello lo devo appoggiare un attimino. comunque ci sia bassa potenza a fondo scala. Sì, allora devo come sempre a disconnessa, sono capito perché, eccolo qua. Adesso vado a fare la prova, mi devo allontanare, devo tacitare questa frequenza, se no dà fastidio, al, come si chiama, al, all'apparecchio, dai. Quindi io ti chiamerò, ti chiederò il controllo, con nominativo e tutto, e per un test di trasmissione. Ok. Hola, chicos. Attenzione, 10, K, c'è qualcuno? Basso basso arrivi adesso. Chi è? Avanti, chi era? Un po' barattolosa, eh. Ah, il caro caro. Aspetta un attimo, sto facendo le prove. Sì, è Natalia, non ti preoccupare. Eccoci qua. Natalia, hai ricevuto qualcosa? Basso basso ti ho ricevuto prima e poi torno a fondo scala. Ecco, quando ti ho detto di controllare che era quella la modulazione, come la sentivi dal punto di vista della comprensibilità? È un po' cupa barattolosa. Sì, quella è la tonalità, ma comprensibile il parlato? Sì, sì. Perché quella è, la portata è enorme, è tutta la Sardegna, tranquillamente, anche le zone impervie. E ho capito, un attimo il break registrato. Antu, tu sei? EK, io sono, stazione 2. EK. AK, salutone anche, non mi ricordo adesso. Ah, non mi viene. Vecchio stai diventando, Antu. E Gianfranco l'amico, dai. EK, ciao Gianfranco, stazione 2, via Milano, buonasera. Ciao, stazione 2, via Milano. buonasera anche a te. Un po'... una situazione un po' strana. Ecco, Natalia, ti volevo dire, di là com'era? Migliore o peggiore di questa... della stazione 2 che sentiamo adesso, giusto per farmene un'idea? No, era meglio, dai. Antonio c'ha un po' di eco, c'ha. Sì, perché c'è il problema sempre che già lo sai, l'analogico è un casotto da gestire, mentre invece gli altri sistemi, miti e vai, non devi fare tutti questi amararan e queste cose un po' improvvisate, tutto lì. Va bene, ok, stazione 2, per essere in via Milano non sei molto, forse è via Milano bassa? Basta l'antenna, adesso domani devo fare un lavoro, la devo mettere in alto domani. Come ti arrivo così in queste condizioni? È un S9 scarso, è una radio 3, dai. KK, e domani devo fare il lavoro. È una cosa alla buccia. Oggi stavo pulendo, facendo. Domani faccio... la metto in alto, vedrai che ti arrivo ancora più forte. Ma non sei Antonio Bombolo? Io sono. Sei quindi in auto, dai, veicolare. Negativo. C'ho la ringo piazzata nella ringhiera. Quindi ti sei spostato di casa? Negativo. Sono qua, stazione 2. Casa mia è casa mia. Qua e qua. In deposito. A QRL. Ho capito, adesso ho capito. Sì, allora sono vero. Sì, allora se l'antenna è un po' bassa va bene, perché di lì no, io pensavo fosse fino a Milano un pochettino più alto, ma di lì effettivamente è abbastanza basso, anche se è buona lo stesso. Poi se c'è l'antenna bassa, quindi va bene tu tanto. Appagappa. Se sono cosa c'è per pochissimo palo, pochissimo tutto. L'ho regolata così, ma domani la regolo bene, domani. cose a posto. Sì, infatti. Comunque, sai cosa dico? Sono uscito fuori poco fa, Natalie. Sono uscito fuori e c'è freddo. C'è freddo, poco fa c'era molto più caldo. Adesso c'è freddo. Questo, se non sbaglio, si chiama Sole inganna Pizzini, così è? In dialetto, sì. Ok, ci devo passare su, che devo fare delle prove, vediamo un po' se ci caviamo un ragno al buco questa volta, ma mi sa che il ragno ci porta dentro al buco. Natalie, ciao per adesso, grazie per le prove. E ciao anche Antonio, buon lavoro. Ci sentiamo più tardi se possibile, vediamo cosa succede. Ok. Tieniti pronto, Gianfra. Break! Ok, Gianfra, dai. Buon proseguo. Aspetta che è entrato Marco, che lo voglio salutare. Marco lì, sono già pronto, ho detto. Tu piuttosto spolverati la maschera antigas. No, non per quello. Scusate l'ingresso a gamba tesa. No, Gianfra, siccome mi fido abbastanza delle tue attrezzature, dovrei fare, quando capita, domani, dopo domani, da un altro, una piccola deviazione ferma, un aggiustaggio. Ok, poi ci sentiamo con calma, ok? Ciao Natalino, non so chi c'è, ho acceso direttamente, ho sentito Gianfranco. È entrato anche Gianni, pare. Ciao a tutti. Ciao Marco! Ciao Marco, c'è Bombolo, Gianni è entrato. Ok, vabbè, passo all'ascolto io, dai. Sì, saluto anch'io tutti che mi sto guardando. Buona serata a tutti, riprendi Antonio. Pagappa, Marco mi senti alla frazione 2? Sì, qualcosa tipo 9-10, io sto chiudendo all'istanza perché sto uscendo. Dai, vi devo salutare, ciao a tutti. Forse c'è più room, credo, avanti. Avanti Gianni. E dai, buonasera a tutti, ciao Gianfranco, ciao Natalino con Rix. K, Antonio, fatto il lavoro? No, lo devo fare domani perché oggi mi sono fatto un culo pulendo tutto il deposito che è a mezza evata, ci ho cucinato molto. Perché non volevo fare tutte una volta le cose, piano piano. Domani ce la butto nel palo sopra in alto, poi vediamo cosa dice. Ah, yuhu. Yuhi. Da lì dovrebbe schicchiare forte. Ma già ti può dire che in terra è tant'enna, già è pompente. Ma il palo già è buono, Antu. Sì, sì, ma qua... Qua no, non ci vuole chissà che cosa, no. Ma non è palo d'acqua? Buah, un pezzo di barogussi per questo tipo di antenna. Questo tipo di antenna va bene anche un palo di antenna. Là già c'è bello, bello grosso, Mi pare che si mazza a capo un altro rumaro te la ponga qua, a 4 metri te la pongo. Cappa cappa. Io ce l'ho un palo, però è da un pollice. L'ho comprato nuovo, ho sbagliato la misura e ce l'ho parcheggiato. Qua ci vuole palo fine. Ah, fine. Ah, basta andare da cosa, 10 euro costa, da... come si chiama? Allora per rubiccio. Vai lì, vicino al cimitero io l'ho preso. Quello più fino costa 10 euro, l'altro mi pare che veniva 15. Ce l'ho, ce l'ho. Ah, se ce l'hai basta. Non ti rammenti più. Sì, quello là, è vero, adesso non ci stavo pensando. Mi pare che se la pongo a 4 metri o e più, che ti posso intendere che pompo forte dai nocchi, la farò bene bene bene l'antenna, ti faccio vedere che spingo un bel forte. Appaga. Cosa sei, a riposo? Eia, ogni auguro che mi sono occupato, mamma mia, oia, sono stanco morto qua. Brecco, brecco! Avanti il break, mia bomba. Buonasera, Daniele da questa parte. Da Daniele, buonasera. Ui Daniel! Ui giovani! Fatemi un controllo come vi sto arrivando, che c'è questa di antenna adesso. Posso dare il controllo perché sono con l'apparato che lo smitter è un po' avaro. Ma non viene più, è a fondo scala. Sì, addirittura tu. Sono fazione 2, Ah, sto usando una gran pena, cavolo, e sono finito. Sono sceso in basso, che l'altro si è troncata. Che antenna stai usando? Una gran plane. La gran plane. E allora? La gran plane della Lem, pompa, è quella 275, con il radiale 275. Sì, quella che c'ha quattro radiali, che sono tutto radiali, i radiali sono più lunghi di tutta l'antenna. Che sembra un ombrello. Esatto. Ti do il segnale giusto. Cazzo, vabbè, più che altro mi serve la ricezione a me, basta che riesca a sentire a tutti come sempre. Come mai questa assenza in questo periodo, Daniele? È incasinato col lavoro, ero già. Fa lavoro e commissioni di casa, l'aria più grana, avete la siricca. E dove stai lavorando? Sempre là? Al comune sono adesso già. Al comune? Ah, vero. Ma fisso? No, forse ci prorogano il contratto, forse, è da vedere. Cioè, devo leggermi il bando che hanno fatto sul Sardegna. E cosa stai facendo al comune? Sempre manovrare, manutenzioni. Già va bene, Dani, meglio di niente, va. C'è il trini, hai fatto il trini. Bravo, bravo, infatti dopo non posso guardare anche il bando. E fa la domanda, perché a questa volta vanno a assumere un sacco di persone, da questi cantieri qua. Daniele, come ti arrivo io da questa postazione? 9:20 sei qua col K, tu. Sono qua in via Milano, vabbè, l'antenna è un po' a terra. Ah, lì te l'hai messa adesso. Ehi, aspetta che domani lo piazzo in alto, la piazza, l'antenna. A fondo scala ti arrivo. No, tu sei forte, un bel forte qua, Sì, siamo attaccati anche per forza. C'ho l'antenna a raso terra. Hai visto domani che hai fatto un capo il PL, te lo posso vedere io. La mia l'ho tirata in alto perché si è fatto sotto il palo, come l'hai visto tu, no, l'altro giorno, ma mi si è fatto sotto il palo. L'ho sceso per cambiare l'antenna, adesso non riesco più a sollevare quelle del terzo elemento. Sei barrato l'antenna? No, il palo si è barrato, oltre che l'antenna, prima il palo e poi l'antenna. Sono proprio dubbi del cavolo. No, non vedi forza faceva, Non vedi forza e in teoria ci voleva un'altra, un regata con altro controvento, magari lì sotto la mantovana, come la prima è legata alla ringhiera, e così metteva a riflettere. Ma come mai non ti sei preso la nuova ringo? Poi, vado a provare questa, tu a vedere, la ringo l'ho già avuta. E poi non c'era neanche la fusaro ieri, era ancora ordinare, ma solamente questa deve arrivare, tu anche questa è ciccia, poi più avanti va la sistema. 9:15 Daniel! Cava, cava, va bene, dai, prima non mi ricordo quanto stavo arrivando, però poco fa ho fatto le prove al 45, non mi ricordo con chi, che l'ho trovato per caso, e 8 a porto ottone stavo arrivando. E già va bene, con 5 marci. 10 sono già. Quindi più o meno è quello il segnale, vabbè io arrivo 9, dai. Certi punti 9, certi punti 8, dipende. Cappa, anche dipende anche da poi che ho chiuso, dai. Guarda, questa qui è il Galaxy, guarda quanto ti sta arrivando il segnale. Io ho messo l'antenna nuova. 9:10 sei già, va benissimo, va benissimo. Antenna nuova, che antenna stai usando? La mitica, la Mantova l'hai scesa? Sì, ho sceso la Mantova, ho avuto anche la Game Master, l'ha toccata al vento, poi ho piazzato la Super Lem adesso, l'ho comprata a Fusaro, e va benissimo questa antenna. come la Super Lemme già? Ma tipo un altro vai. Esatto, poi l'ha fatta la vita, c'ha praticamente l'incasso che va nel palo che è tutto quanto in acciaio. È bella, ben fatta, tutte la bulone in acciaio, tutto quanto veramente un'antenna bella. Vabbè, io qui va. Ecco, l'ho messa e ho dovuto togliere un radialino, ho dovuto togliere, perché ho fatto un radialino, un radialone. Perché non riuscivo a fargli scavalcare la mantovana come sempre, lo stesso problema. Però l'ho presa questa perché era piccolina, adesso proviamo questa, riflette anche poco. E vediamo se rende come le altre. Alto, io quando ti sto arrivando qui a Milano? Sì, 9:15 Radio 5. Sì, io va bene. Sto facendo consiglio, dai. E a voglia che va bene qua. Adesso domani compro il DL e faccio il lavoro. Però me lo metto lì sopra là e sono convinto che là si è forte. Alto, il piede non ripiglia a fusare chi non l'ha vista a me. Che ne ho comprati io, ci devo tutti buttare perché non ha vista. Non li prendo quelli in bacchilite, prendo quelli normali, tanto io potenza non li devo usare qua. Quindi non me ne ha fatti nulla, quelli già avvistano, quelli funzionano bene. Quelli bianchi? Sì, vanno più che bene, vanno. Quelli in bacchilite non avvistano. Provate tutti gli apparecchi, ho fatto tre o quattro spezzoni, ho provato, cazzo, non ce n'è uno che ha vista, dopo che li avevo fatti, 3 ore e 20, da cui vanno. No, già lo so, come funziona, purtroppo è così, quanto te l'ha fatto pagare Daniele? 40, intendo a me, 40 euro? Capo di Robert, mi ha dato pure il coso, l'adattatore per attaccare al palo. Che sei a parte? Che microfono stai usando? F60 già. Ah, l'F60, bello forte. Questo sì che ciccia. C'ho anche al mio, anzi, mi sa che è troppo alto già. Guarda adesso. Guarda, c'è sentito anche tua moglie che ti ha chiamato. Daniele! Sito, con la vocina mi stava chiamando, mi ricordo la cambia saluti. Aspetta che ti faccio parlare con una persona, aspetta. Ecco. Aspetta, siamo incasinati. Che è avanti? Che è a tu? Vi saluto a tutti. Che? Aspetta che non ho capito. Fai un passaggio più lungo. Che non sopravvolato. Sera Daniele, saluti dalla stazione Leopardo. Ciao, buonasera, ben sentito. Non l'ha riconosciuto chi è? Oi. Ah, chi è? Franco, chi è? lui era. Cazzo, riconosciutolo. Buonasera. Appa, ti saluta, Fra. R-K, salutoni dalla stazione Leopardo da Sassari, che ti copio bene? È riconoscibile la voce, proprio. E allora Frai si dice, ma c'è anche qualcun altro che voleva entrare, avanti, chi è? Non c'è nessuno. Riprendi Fra, Antonio, Gianni, riprendetelo un secondo. Vai Fra, avanti. Gianni, non sono Franco, Gianni. Sei Giovanni, ho capito, infatti a me mi sembrava strano, non eri Franco. Io avevo già percepito che fossi tu. Ciao Giovanni, tutto ok? Tutto caparoggio, è tutto positivo, intanto si stiamo in tempo a te, giù no? Lì ci stai lamentati, voi non avvini più con tutti gli aumenti che mi sono stati, hai finito a lamentare. Che cosa stai usando Giovanni come apparecchio? Sto facendo bene e bene. Printec 500S. L'FM 500S? Bravo, proprio quello. Già sta andando bene, la radio è normale, però va bene, chiara, limpida, ecco qua. Importante quello, va, a me non ti ascolta e ti sei a distanza. Appagato. Avanti a chi tocca. Ho sentito qualcuno che voleva entrare, avanti. No, ma chi era l'altro? Giovanni? Sì, io sono già entrato e saluto a chi non mi ha sentito. Ecchime, ecchime! Avanti, avanti! Riprenditela! È in macchina, non è più fuggio a fare! Io già, no, no, ho tolto tutto! Adesso lo devi mettere, adesso viene arrestato, da poco! No, se mi riprende il fuori di strada già me lo rimetto. In macchina in questa no, non ne metto. Non ne metto, 000. C'è entrato Giovanni, dove modula? Giovanni da Porta Nuova, tanto stupito. Lo sai che lo sentivo, basso ma lo sentivo da qua. Ma cos'è, movimento o stazione fissa? Stazione fissa. Sta usando... c'è un'antenna adesso che funziona bene, piccolina, costa poco, 60 euro. Se l'avessi detta a noi, te l'avremmo consigliata. E questa antenna qua è favolosa. Quella che sta usando Giovanni. No, lo sento bene, capito. Voglio cercare fare distanza, vedere come risuona, come arriva, ho capito. Ma la gran pesa fa sempre una grande antenna, solo che fa TV guai. Ha avuto sempre quel vizio che fa TV guai. Ah, boh, ancora mi ha bussato nessuno alla porta, qui non lo so, se mi vedono adesso c'ho il tifo dal cancello, questo non lo so. Vabbè, sono legito alle terrestre, anche Antonello me l'ha detto, mi diffusaro, che è difficile farlo, molto, molto difficile. Sì, non è come dicevi. Allora, l'altro giorno stavamo piantando, siccome Luca è acceso un'antenna per pulirla, tutto quanto, la stavamo rimettendo, e praticamente subito è uscita quella signora, ha detto che stava facendo le strisce o cose con l'antenna, ma noi la dovevamo ancora sollevare, quindi abbiamo detto, no, la stavamo provando, adesso è una stazionaria, adesso la risolleviamo, e non ne fa più, capito? Però lo fa. Boh, già. Adesso vediamo, e se no la cambiamo di nuovo, voglio che ti dica, io ho preso la sfizia a provarla più che altro. Daniele, cambia tutto. Ma la mia Gran Play o la Gran Play grande? La grande, che è che hai detto buttaci tutto? Daniele, attento, cambia tutto, vedo, non buttaci tutto. Lì siamo, no? Non tocca se no, non tocco nulla. Daniele, ehi, ma ti ho visto lavorando, eri tu, scusa. Lì, via Politeama. Ma stai farendo di tutto, però Daniele, che cosa che non anda vecchio? Attenzione a fare il burutume. No, no, no, lì dobbiamo chiudere tutto via Politeama adesso la prossima settimana, altro che... Chiudi anche il sindaco, gli assessori, tutto quanto chiudi. Tutti sotto per il mongo. Se ne veda. Oh, Iulia. Riprendi Gianni Ghe. Va veramente bene, ti fa uscire bello forte, potente, cosa stai usando? 140? Ehi, al 14 è. Va benissimo, va benissimo, una bella voce, proprio bella squillante, non tocca se. Ehi, 10 watt è. E cioè, è al minimo, è sopra la M il mic. Va bene, noi posso rallentare, dai. Sì, 10 come spingi la portata e poi già. Sì, 10 fisse poi sono i picchi modulati. Gappa, io ho avuto due io di questo. Anche questo è il mio, il secondo, la bagaglia mia che me l'ho venduto il primo. Io ne ho venduto uno che andava ben bene, me l'ha arrivato al continente. L'avevo comprato in un negozio dove vengono questi apparecchi. Tutta la linea completa, c'è la rilevatore, cassa esterna, portatore, tutto. Da fuori l'ha preso? Cappa di rosmetro. Se riesci a comprarlo nei negozi, te lo danno già lineato, tutto quanto per fatto. Io mi ha detto, qua c'è un MC60, ma non te lo mando perché sono il pignore, ma l'avevo comprato nuovo, l'MC60, 175 euro. No, io avevo trovato l'MC60, la linea completa, tutto quanto ho preso. Tutto. E questo ho trovato lì poco fa in banda Natale con Natalino e... Perfetto. no, è allineato, ho detto tipo che era già stato allineato anche da poco. Ma la mia va bene, dai, fa molto bene. E io mi ho contatto lui, si vecchio. Ma come dicevo prima io, Quello che c'ha tre strumenti. Che sono verdi, quello che avevo io. Quello è bello, Cava, già è bellino, sì. E non lo usi già? Lo stiamo parlando prima di questa, stiamo usando il Rubis. Cavolo, c'è lo Smith era avaro. Lo Smith era un po' avaro, sì. Peccato, cioè era stato perfetto al 100%. Vabbè, dai, riprendi i bomboli che arrivo subito. Sì, a capo, vai, non ti preoccupare, Daniele. Ma si può regolare, però la padronia è fatta. Già lo so, come sempre. Io l'ho fatto perché, come si dice, ho cambiato l'antenna perché la penzoloni era diventata anche pericolosa. Stava andando proprio con l'ultima staffa che tiene tutta la struttura dell'antenna, perché si è troncata la sopra la bobina. E quindi era pendola a pendola. Quel vento che ha fatto, a me non mi c'è da rubarmi, non è da scherzare il vento che ha fatto, non questa volta ma la volta scorsa. No, a me è l'ultimo, il primo mi aveva piegato il palo, mi ha detto l'ha visto che l'ha chiamato, allora deve fare il palo sotto. L'ultimo vento che ha fatto l'altro giorno mi ha bloccato l'antenna, però adesso ripeto, non riesco a salire il terzo elemento, poi ho incastrato troppo in giù. Anche se ho messo VD40 e tutto per farlo scorrere, però almeno in due bisogna essere, vabbè, piano piano già lo so lei, adesso già prende forma. Comunque già va bene, va benissimo con la terra, per lo meno in città va bene, poi non lo so fuori. Già va bene, certo la ringo un po' meglio di quella. Io non lo so, Antu. La ringo andava bene, questa sì che andava bene. Perché questa già devo sollevare perché c'è radiali un po' troppo bassi, capito? Dovrei almeno alzarli di a un metro almeno sopra il tetto. E invece ancora non ci arrivo un metro sopra il tetto. Quanto è di stazionaria, Daniele? Guarda, con sei radiali è uno. Anche ad accordato rispetto, sia con quello della linea che con l'altro che c'ho della ZG. Già va bene. Ho fatto un po' tipo la mantova turbo che avevo prima, che anche se è arrivato a 5 radiali. Se mi telefonavi te la facevo dare a te, perché l'aveva messo la parte per me e io non me la sono ancora ritirata. Me l'avrei fatta mettere da parte, capito? Ma quale, Antu? Ringo. Me l'ha detto Antonello ieri che c'era Ringo che la nostra migliorata e tutto, però era da ordinare e ciccia. E l'ho detto, vabbè, io la voglio una giusto così se ce l'hai a provare, basta che sia un'antenna diversa da quella che ha avuto. Poi se comincia la primavera riesco a sistemarla con i cristiani e trovare una soluzione migliore, magari si può anche prendere un'altra antenna più seria. Poi dipende sempre da come si comporta questa, se questa va bene e funziona come l'altra e come l'altra che ha avuto va bene.